Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Tra le notizie di questi ultimi giorni ha rilievo quella secondo cui le fiamme gialle o le intelligence varie avrebbero scovato 3,9 miliardi di euro di patrimoni non dichiarati che italiani abbienti avrebbero portato all'estero. La notizia viene data con la giusta enfasi e raccontata come un merito, come senz'altro è, dell'Agenzia delle Entrate. La stessa notizia dimostra però che se lo Stato continuasse ancor più alacremente sulla stessa strada, molto altro potrebbe essere trovato, dato che fuori dall'Italia giacciono circa 100-150 miliardi di euro di patrimoni. Questi soldi furono portati altrove per paura. Ricordiamo quando la gente cercava i marchi tedeschi perché non si fidava della valuta o dello Stato italiano, oppure per evasione pura o per altre esigenze che la gente normale non ha. Se 100 miliardi dovessero venire rimpatriati coercitivamente e gli evasori venissero multati, lo Stato ricaverebbe ben più che i 5 miliardi che spera di ricavare con lo scudo fiscale, che per contro ha lo svantaggio di condonare veri e propri crimini. I 5 miliardi sperati sarebbero un vero piatto di lenticchie di cui il Ministero dell'Economia si accontenterebbe per fare cassa momentaneamente, così malmessi come sono i nostri conti pubblici. Ma, come dicono gli inglesi, beggars can't be choosers, colui che chiede non può scegliere, e si accontenterà della bontà del donatore che decide di far rientrare i capitali. Angelo. C'è un famoso magistrato torinese che per anni veniva in palestra vicino a casa mia, in pieno pomeriggio, con tanto di scorta. Io non ce l'ho questa possibilità. Lettera firmata. Fatte le debite eccezioni, che esistono ma sono veramente poche, la maggior parte dei magistrati, una volta passato il concorso e insediatisi in ruolo, vive di rendita. Come tutti gli impiegati della pubblica amministrazione, i magistrati, o quantomeno la maggior parte di loro, ritiene che lo stipendio sia loro dovuto per il solo fatto che occupano la carica. Effettivamente, la maggior parte di loro è mossa da ben poco interesse per le pratiche di cui si deve occupare, che sono poi le vicende di noi cittadini. Sbadigli, noia, molte pause e caffè, nelle seppur limitatissime ore in cui il magistrato sta in tribunale. Fastidio per le parti che vogliono parlare, arroganza nei confronti degli avvocati che, pagati per fare il loro mestiere, dovrebbero pur poter discutere e parlare davanti al giudice. Si avverte sempre la sensazione che il magistrato non veda l'ora di scapparsene a casa. E la qualità dei provvedimenti? Vogliamo parlarne? Se fino agli anni 80 su 10 sentenze, 7 erano accettabili e 3 dovevano essere impugnate, da almeno 15 anni a questa parte il rapporto si è esattamente invertito. 7 sentenze su 10 sono infarcite di errori giuridici, per cui necessitano di appello o ricorso per Cassazione. Le corti sono intasate? Troppi processi? La colpa non è della litigiosità degli italiani, ma in larga misura del fatto che solo raramente le sentenze dei magistrati sono tecnicamente corrette. La proliferazione del contenzioso è strettamente conseguenziale alla proliferazione degli errori giudiziari, e solo i magistrati sono gli autori degli errori giudiziari. Non mi pare il caso di mettere orari e tornelli, ma sicuramente è indispensabile controllare seriamente la produttività e la qualità del lavoro che svolge ogni singolo magistrato. Attilia, avvocato. Spettabile direttore, in questi giorni si parla molto delle traversie, vere o presunte, di trasmissioni di approfondimento politico come Anno Zero e Ballarò. In Italia è balenata l'idea che la libertà di stampa sia sotto minaccia. Sono argomentazioni sicuramente interessanti, ma che nascondono la vera ragione del contendere delle diverse forze politiche, ovvero l'ottenimento del consenso. L'orientamento ragionato e sedimentato negli elettori è difficile da modificare e qualche fumosa trasmissione più o meno di parte non riesce di certo a far cambiare l'intenzione di voto. Il consenso raccolto in TV, in molti casi, è invece ottenuto in 1000 trasmissioni generiche con piccoli riferimenti, foto ammiccanti, aneddoti simpatici, e intelligente gestione delle notizie, amplificando quel che piace e diminuendo quel che può disturbare. La discrasia è che le trasmissioni dichiaratamente di politica incuriosiscono solamente gli addetti ai lavori per qualche ora, mentre nel rimanente palinsesto lo spettatore inconsapevolmente si trova esposto a continui messaggi più o meno subliminali che pian piano costruiscono il consenso. Da questa constatazione nasce la mia convinzione che numericamente si ottengano più voti con trasmissioni apparentemente innocue, come Mattino 5 o Striscia la Notizia, piuttosto che con Anno Zero. In poche parole, l'oggetto del contendere è sbagliato e spudoratamente sbilanciato. Flavio. Carissimo direttore, sono un elettore del PDL e per documentarmi ho voluto seguire un paio di trasmissioni di Santoro e Gad Lerner. Proprio lunedì sera, mentre seguivo Il Bastardo, il blog di Gad Lerner, ho provato a collegarmi al sito. La password per poter entrare non mi è stata inviata, ma curiosando sul blog ho scoperto che tutti i commenti erano in un'unica direzione. Tra l'altro con pesanti insulti alle due ragazze del PDL presenti in studio. Questa sarebbe la democrazia per questi ciarlatani. Vendola ha fatto una tirata sproloquiando sui costumi italiani corrotti da drive-in, dimenticando che il primo settimanale a pubblicare donne nude in copertina fu proprio l'Espresso. Gad Lerner & Company parlano tanto di fascismo da parte del Berlusca, ma ha mai riguardato il modo in cui conduce le sue trasmissioni? Gianfranco. Egregio direttore, il dilemma canone sì, canone no, per me non è molto importante, perché ritengo che qualora si abolisse il canone, si aprirebbero due possibilità. La RAI resta pubblica e viene sovvenzionata tramite la fiscalità generale. La RAI viene privatizzata e allora pagheremo il suo costo su ogni prodotto che acquisteremo, visto che la pubblicità viene certo calcolata per determinare il costo finale di ogni prodotto. Quella che invece io trovo scandalosa è l'abitudine ormai diffusa nei programmi di maggior successo, sia della RAI che di Mediaset, di inserire nel programma un quiz cretino o un pretesto qualunque per invitare i telespettatori a telefonare al costo di un euro a telefonata per partecipare all'estrazione a sorte di un premio, udite udite, da ben 1.000 euro. Mi chiedo, quanti saranno quelli che cadono ogni volta nella trappola del quiz cretino? Quanto guadagna ogni volta l'emittente? A quali categorie sociali appartengono in prevalenza i partecipanti a questa specie di lotteria di beneficenza a favore delle nostre povere emittenti? Non saranno forse coloro per i quali 1.000 euro potrebbero rappresentare la soluzione per dare fiato a un ménage familiare in sofferenza per la crisi attuale o per la perdita del lavoro? Mi sembra vergognoso ricorrere a questi mezzucci per poter alla fine mantenere stipendi favolosi a certe star, a scapito di quelli che sono costretti a sperare in un colpo di fortuna per continuare a sopportare la fatica di sbarcare il lunario. Diana. La BBC ha un canone molto più alto di quello RAI e mi pare che sia di tenore diverso, ovvero non è una tassa di proprietà come da noi. L'abissale differenza sta nel servizio. Vi invito a visitare il sito istituzionale della BBC per rendervi conto di cosa vogliano dire eticità, livello dei servizi, attività di charity intensissima, devolvendo in beneficenza parte del ricavato dei televoti. E poi ci sono controlli capillari da parte di comitati regionali e locali, composti da persone di provenienza sociale diversa. Anche la RAI, almeno sulla carta, possiede un comitato di utenti, ma sfido chiunque a dirmi cosa fa, o meglio, cosa può fare. Rilancio una mia crociata per devolvere parte degli introiti da televoto in charity. Perché non ci pensa un po' anche Radio 24? Sono certa che gli italiani, se si trovassero una virata etica di questo tipo, comincerebbero a pensarla diversamente e a pagare il canone. Silvia, Bergamo. Gentile direttore, senza entrare nel merito del canone RAI, se sia o no da pagare, vorrei richiamare l'attenzione sulla sbandierata espressione servizio pubblico come la BBC. Ritengo che gli inglesi dovrebbero offendersi per il solo fatto di sentirsi tirati in causa. Lungi dall'essere un servizio pubblico, da sempre la RAI è la piovra dei partiti e, come tutte le piovre, ha più tentacoli. Le reti rispondono ai partiti, come anche un sordo, cieco e muto capisce subito. Ne consegue che, essendo i partiti delle associazioni private, la RAI è privata. Ora veniamo a me. Io faccio solo un po' di zapping tra i vari telegiornali e poi ascolto la radio. Domanda retorica. In che misura dovrei pagare il canone? Mariangela. Caro direttore, in questi giorni si parla molto di libertà di stampa, di pericoli per la democrazia, di possibili tentazioni autoritarie da parte degli uomini di governo. Non pensa che si stia esagerando? L'Italia è una democrazia ormai consolidata e il confronto politico dovrebbe concentrarsi sulle cose da fare più che sugli atteggiamenti e le dichiarazioni. A che cosa servono in questo senso le manifestazioni di protesta? Giovanna. Cara Giovanna, sono solo in parte d'accordo con lei. È vero che la democrazia in Italia come sistema costituzionale è ormai consolidata e correttamente fondata, ma è anche vero che l'Italia può essere promossa a pieni voti sul piano delle garanzie formali, ma ha anche molti passi da compiere sul piano di quella che potremmo chiamare la democrazia sostanziale. È vero, le elezioni sono libere e la stampa è libera, come dimostra la nascita di nuovi giornali, come Il Fatto, che è in edicola da qualche giorno. Ma è anche vero che una legge elettorale basata sulle liste bloccate dai partiti non permette una vera espressione del consenso. Così come è vero che a fianco di una stampa libera c'è una televisione, che resta peraltro la maggiore fonte di informazione dei cittadini, in cui c'è un ormai inestricabile conflitto di interessi. Per questo non può che essere valutata positivamente ogni forma di protesta, ma soprattutto ogni tipo di partecipazione alla vita pubblica, così come ogni richiamo a far sì che la democrazia diventi concretamente considerare lo Stato un'espressione dei cittadini. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.